Ben ritrovata Patrizia Salvatori. Come buon pomeriggio, buona giornata a tutti. te per parlare del Cineclub Alphaville e della programmazione di marzo che è alle porte. Sì, ormai siamo arrivati a marzo, speriamo che sia un marzo, diciamo, non freddissimo, che davvero sia l'inizio della primavera. Noi così pensiamo che può essere l'inizio di primavera. Infatti, diciamo, il mese di marzo è stato chiamato, titolato finalmente marzo e prevede quattro rassegne che in qualche modo ci dovrebbero aiutare appunto ad arrivare poi alla primavera. La prima di queste è una rassegna dedicata a Guillermo del Toro, che è appunto regista messicano molto noto per film che hanno avuto anche un grande successo non soltanto di pubblico. Cito per dire Il labirinto del fauno, che infatti daremo, e La spina del diavolo, di cui ci andava appunto di guardare anche qualche altro film, considerata insomma la sua presenza importante in alcune grandi manifestazioni, in alcuni grandi festival internazionali e anche nel nostro a Venezia prossimamente a settembre si occuperà di essere appunto il primo giurato, diciamo, del festival. E quindi niente, guarderemo insieme nei primi giorni di marzo, dal 1 al 4, dal 5 per l'esattezza, guarderemo appunto una serie di film, tra cui anche il Nick e tra cui anche Crimson Peak, e quindi guarderemo questa storia, queste storie che ci hanno molto colpito perché riguardano un regista che è stato capace di coniugare l'intrattenimento e le nuove tecnologie al servizio del cinema, ma anche capace di riproporre storie che sono in qualche modo plastiche, come per esempio l'ultima sullo schermo, appunto, La forma dell'acqua, cioè storie in cui l'elemento narrativo è la favola, l'intreccio fabulatorio, e che si ritrova però a contatto anche con momenti importanti della storia, per esempio il nazismo e non soltanto. Quindi un regista da applaudire perché è capace appunto di soddisfare le esigenze del cinema di intrattenimento, ma anche e soprattutto del cinema d'autore. E questa sarà la nostra prima settimana, che di domenica però sarà anche l'omaggio al Day Awards. Quest'anno appunto c'è l'anniversario di questa diva hollywoodiana e noi la ricorderemo facendo vedere un altro grande film di un altro grande regista che è Orson Welles e La spina di Shanghai, e questa avverrà nelle nostre pomeriggi di domenica. Poi apriremo, a parte la presentazione di un corso di storia del cinema nei martedì, i nostri martedì sono sempre legati a presentazioni o comunque insomma ad eventi molto particolari, ma e soprattutto che faremo vedere qui i film della storia del cinema come per esempio Aurora di Murnau, oppure ancora, non oppure, insieme a Marcel Duchamp, sono tutti anniversari ritorni di Marcel Duchamp, il surrealista, faremo vedere estratti delle sue meravigliose opere cinematografiche. Poi ci sarà nuovamente una seconda rassegna dedicata all'universo femminile, che si chiama Tessipe, ed è una rassegna molto curiosa in cui personaggi femminili buoni e tra virgolette cattivi si alternano all'interno di queste storie guidate da grandissimi autori. Cito per citare La donna del ritratto di Lange, Adele Asta, di François Truffaut, proprio l'8 marzo, La passionaria per amore, La vendicatrice del cuoco e la tua moglie l'amante, il nuovo cinema contemporaneo che tanto sta spopolando adesso con le produzioni appunto A24, la Grande Digue, dove ha partecipato anche appunto Greta Gerwig con Francis Ha, La collezionista di Nomer, Le arrampicatrici di Ola Costroeva e Le giovani donne adolescenti, ma bisogna stare attenti, si confrontano con Charlotte Rampling, di rispetto al... Poi avremo una rassegna dedicata a Hitchcock, soprattutto all'Hitchcock del periodo inglese, quindi tutti quei film 29 anni 29-39, in cui il regista era ancora in patria e però intanto già stava realizzando dei capolavori, addirittura poi proposti in America con ben altre, diciamo, possibilità economiche. Quindi vedremo cose bellissime, vedremo film dall'intreccio curioso, dalle signore scompare all'uomo che sapeva troppo, allo splendido pensionante con tutti i trucchi scenici di Hitchcock, al Club dei 39, Omicidio, Giovane Innocente, Blackmail, tutti film che hanno fatto impazzire anche e soprattutto da dove vado, che poi scoprì Hitchcock come autore, e di questo ci ricorderemo infatti presentando poi il martedì successivo un bel documentario dedicato a Hitchcock, Hitchcock Tuffo, che in qualche modo ripropone il film di un grande ritagliato chiamato Stubbianà, spezzoli d'epoca legati proprio al rapporto Hitchcock-Tuffo e a quella famosa intervista che spiegò appunto chi veramente era Hitchcock. Non era soltanto un regista da botteghino, ma anche un grande autore, un grande creatore di cinema. Ci saranno interviste all'interno di questo documentario a Scorsese, a Wes Anderson, ad Assayas, a Bogdanovic. Chiudiamo con una rassegna molto interessante, chiudiamo ma per poi aprire nuovamente, siamo soltanto nella prima fase, dedicata al capitale, il capitale quello di Marx, e quindi dedicata in realtà a Karl Marx, che quest'anno fa tanti anniversari. Sia il suo appunto, che è l'anniversario della nascita, sia quello per esempio del manifesto insieme ad Hegel. Avremo la possibilità di sentire in viva voce dal sociologo Mauro Antonio Ciappiano, che è appunto un docente dell'Università di Roma, esperto in Marx, studioso di Marx. Avremo la possibilità di sentirci raccontare la contemporaneità di Karl Marx, il suo pensiero, la società del capitale, e poi abbiamo scelto ovviamente una rassegna in cui il capitale viene declinato secondo alcuni importantissimi autori della storia del cinema, quindi da tempi moderni il Charlie Chaplin all'eredità del danese Per Fly, che ebbe molto attenzione da parte della critica quando uscì all'inizio del 2000, a Crepa padrone tutto va bene di Jean Godard, ormai un classico della storia del cinema, a uno dei primi film conosciuti nel nostro paese, Riff-Raff di Ken Loach, dove l'operaismo assume una importanza esagerata e positiva all'interno della società del periodo, stiamo parlando degli anni 90, e poi il grande Robert De Bianchi, questo regista di Massiglia, che si è sempre concentrato sugli amori, la vita, le passioni, le difficoltà, insomma tutto quello che riguarda il mondo operaio. E di questo vedremo, di questo grande regista marchese, forse un po' meno conosciuto in Italia, avremo modo di vedere Le Nevi del Kilimangiaro, che è un film sempre interpretato da quel grande attore che è una sorta di feticcio per lui, Jean-Pierre Balanzan, e sempre con questi intrecci tra vita vissuta, difficoltà di lavoro e chiaramente, purtroppo o per fortuna, storie qui tra virgolette capitale. Benissimo. Per concludere marzo ci sarà un'altra gallery, cioè una galleria di arte pittorica dedicata a Leonardo da Vinci e al sorriso della Gioconda a cura di Liliana Calzatore, e ci sarà anche la presentazione di un libro che sta proprio sul pezzo perché riguarda l'insegnamento scolastico, gli insegnanti e tutto quello che in qualche modo ruota intorno alla scuola, che come sappiamo in questo momento sta perdendo colpi e forse bisogna interrogarsi sul perché e sul per come. Io penso di aver detto un po' tutte le cose principali che ci saranno appunto all'interno di questo marzo. Mi dimenticavo, ma non dimenticavo la scuola, insomma dimenticavo di dirvi che quella serata ci sarà anche Zeren Condotta del grande Jean Vigo, una sorta di manifesto anarchico di bambini appunto che cercano di fare rivoluzione all'interno del mondo degli adulti che cercano di dare le regole, e quindi ci saranno più un cioccolato e quant'altro. Penso che sarà sicuramente un marzo da condividere. Benissimo. Patrizia, in chiusura, lasciaci allora tutti i riferimenti internet per la programmazione. Allora, tutto si trova, tutto quello che ho detto e anche di più si trova sul sito del Cineclub www.cineclubalfaville.it e per info direttamente al 339-3618-216. Poi se ci volete scrivere, all'interno c'è l'indirizzo appunto della casella di Alfaville. Vi aspettiamo. Ciao Patrizia, a presto.